È realismo pensare che possa ridiscendere in campo Silvio Berlusconi per la quarta volta? È la notizia un po' politica del giorno. Ha detto c'è un paese sul baratro, io non posso permetterlo, l'economia è allo sfascio, stiamo peggio che un anno fa e sono assediato da richieste a ricandidarmi. Lei come la vede? Guarda, io faccio un parallelo con quello che è successo in Lega. Umberto Bossi, dopo quello che è successo, il cerchio magico, Bersiglio, eccetera, ha avuto la grande dignità e il grande amore della Lega, perché me lo ricordo al congresso che piangeva, di capire qual è il bene della Lega, il bene della politica, e ha fatto la scelta di fare il padre nobile del movimento diventandone presidente onorario. Io credo che se Berlusconi dovrebbe, io per carità non mi metto nei panni degli altri componenti politiche, però forse l'interesse del centrodestra e del PDL è quello che Berlusconi abbia lo stesso ruolo, ha creato Forza Italia come Bossi ha creato la Lega. Se ne facesse il padre nobile senza mettersi in prima persona, forse quello sarebbe il servizio migliore che potrebbe rendere alla sua creatura, Forza Italia e al centrodestra. Ma secondo lei è ancora una presa sull'elettorato di centrodestra, sull'elettorato berlusconiano? Si è sempre detto che ha trasformato in plebisciti le elezioni. In tempi non sospetti, quindi si parla dell'aprile, ancora prima di aprile dell'anno scorso, diciamo all'inizio dell'anno scorso, sostenne e condivisi quello che diceva Bossi in vista delle elezioni di Milano, che diceva se si vince a Milano vince Berlusconi, se si perde a Milano perde Berlusconi, perché in realtà si capiva qual era il feeling degli italiani nei confronti dell'allora Premier, tant'è che poi la cosa venne riconfermata sui referendum, dove Berlusconi prese una posizione ben precisa e molti andarono a votare per dispetto a Berlusconi, ma anche nel centrodestra. E quindi vuol dire che questo grande rapporto di grandissima fiducia che c'è stata da parte degli italiani nei suoi confronti fino al 2008 e anche un po' oltre, secondo me si è incrinato pesantemente. Ma senta, ma Berlusconi che dice c'è un paese sull'orlo del baratro, anche voi e Tremonti che rilanciate un programma, però un anno fa, appena un anno fa, molti vi potranno imputare i fallimenti anche del governo di appena 365 giorni fa. Perché in Italia ci si può riciclare come credibilità nel giro di così poco tempo? No, ma bisogna essere coerenti e lineari. Io proprio perché per fortuna cerco sempre di essere coerente con me stesso. Quando Berlusconi disse che in Italia i conti del paese erano a posto, l'economia andava bene, facevano i ristoranti pieni, già allora, e si parla di prima evidentemente che Berlusconi cadesse, era, credo fosse il primo dell'estate, giugno o roba del genere, di un anno e mezzo fa, io dissi che Berlusconi sbagliava perché in realtà i conti del paese non erano fatti a posto, le cose andavano di male in peggio.